24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì, benvenuti a 24 mattino. Oggi abbiamo, come sempre, due ospiti. Abbiamo Aurora Lussana, che è stata direttrice di Telepadania e anche della Padania, e Massimo De Manzoni, condirettore de La Verità. Quindi giornalisti che hanno appunto diretto giornali o condiretto giornali. E mi piacerebbe, per curiosità, perché poi insomma il tema di come i giornali possono avere ancora un ruolo e a volte sopravvivono, a volte no, a volte trovano un modello di business nuovo dopo la rivoluzione di internet. Magari dopo faccio una domanda a entrambi su questo, perché ovviamente è un tema che mi coinvolge sempre quando ho giornalisti appunto che sono stati al vertice o sono al vertice di un giornale. Mi piace sempre stuzzicarli su questo, però in realtà dobbiamo un po' concentrarci su quello che sta succedendo in Italia. A me ha fatto molto effetto ieri vedere l'ennesima bagarre in Parlamento, perché ci si aspetterebbe forse, non so, idealmente che il comportamento in Parlamento seguisse delle regole un pochino più di civile convivenza e civile dialogo. Sentiamo un attimo e vedrete che insomma è giustamente molto disturbato questo audio delle proteste di ieri alla Camera, dove si discuteva della riforma del codice penale, quindi sicuramente un tema importantissimo. Sentiamo. Ecco, appunto, non cortesemente fate silenzio, cortesemente levate i cartelli, ma non so, è un comportamento degno di un parlamentare. Lo chiedo prima a Aurora Lussana. Buongiorno Aurora, che tra l'altro è sposata. Buongiorno. Con un parlamentare, quindi forse anche qualche informazione di così già presa diretta. Di meno, già questo veramente potrebbe bastare. Sì, no, allora la storia parlamentare del nostro paese è contrassegnata da episodi poco edificanti. È un luogo, per una come me che non ama particolarmente la retorica, comunque è un valore. Certo. Io sono una persona estremamente lontana da tutto ciò che può essere cerimoniale, istituzionale, quando magari vedi che si carica troppo di emotività alla Boldrini, diciamo. Mm-hmm. questi sacri, la sacra aula del Senato, la sacra aula della Camera. Ecco, la sacralità forse no, però oddio, anche questo eccesso di relativismo assoluto nei confronti delle istituzioni non mi piace. Ti dico solo che spesso da cronista parlamentare ho visto anche episodi anche divertenti, poi ti fai una risata. Sì, ripeto, non sono luoghi sacri, non è il santuario della democrazia, non lo è più da tempo. Però distinto, sono un po' infastidita anch'io, ma semplicemente che io sono infastidita anche quando in un'aula scolastica. Certo. non o in un bar, insomma, per, no? Ecco, sono una ragazza, se vogliamo, del secolo scorso, e sì, un po' più di rigore mi piacerebbe, a prescindere, ripeto, dalla retorica boldriniana, per cui quelli sono luoghi sacri e inviolabili. Ecco. Massimo De Manzoni, tu che effetto ti fanno queste scene, a cui, come diceva Aurora, non siamo abbastanza purtroppo abituati, però sembra sempre di appunto che non si riesca a quello. Dovrebbe essere un luogo non sacro, sono perfettamente d'accordo, e a volte gli atteggiamenti di Laura Boldrini sfiorano un po', si avvicinano quasi al ridicolo in questa sacralità che poi magari lei stessa è viola con i fatti, ma comunque dovrebbe essere un luogo di confronto civile, di confronto di idee, di posizioni, non a forza di urla e cartelli. Non so, Massimo, se sei d'accordo. Sì, ma è un po' lo specchio di quello che siamo diventati, cioè andate in giro per strada, parlate con la gente, rispecchia un po' un piccolo imbarbarimento della civiltà che... Certo, anche su internet, no? Lo vediamo. Su internet tocca l'apoteosi. Come in tutte le cose c'è stato un pro e un contro. Abbiamo tolto un po' di paludamenti al nostro atteggiamento, e quindi anche un po' di ipocrisia alle volte. Siamo un po' più diretti in qualsiasi cosa, non rispettiamo alcune formalità, ma questo ci porta anche a essere molto più maleducati nella vita di tutti i giorni, e inevitabilmente questo finisce anche in Parlamento. Diciamo che abbiamo pagato un prezzo abbastanza notevole, appunto, a questo togliere un po' di cerimonia e di formalità al nostro vivere. Al nostro vivere, certo. Cambiamo argomento, perché insomma dobbiamo anche noi, anzi poi voi lo fate anche di professione, commentare questi risultati elettorali di domenica. Domenica si è votato in 1.004 comuni italiani, 9 milioni di persone chiamate al voto, in realtà con un'affluenza poi poco superiore alla metà, quindi molto bassa, e si è parlato molto di chi ha vinto, chi ha perso. Una domanda secondo me un po' mal posta, nel senso che con queste coalizioni così miste che c'erano, è difficile, anche se c'è chi ha azzardato questa ipotesi, che ci sia di fatto un ritorno al bipolarismo. Sentiamo per esempio Matteo Renzi, che come molti altri ha detto di essere contento dei risultati, benché, ricordiamolo, il PD abbia perso il 6% dei voti rispetto a una precedente tornata amministrativa, quindi contento lui, però meno 6% c'è stato. Sentiamolo su questa soddisfazione. Ma lei è contento di questo risultato? Io dico che sì, certo, nel senso che il risultato, non direi che dal punto di vista politico è sostanzialmente un pareggio tra centro-sinistra e centrodestra il primo turno. Si va ai rigori. E vabbè, si va ai rigori. Siete d'accordo, Aurora, se anche tu la vedi come un pareggio? Sì. No, vabbè, questa frusta metafora calcistica mi annoia sempre un po'. Insomma, quando fa l'allenatore, sì, questo moderno, vabbè, è proprio una roba che è un po' anni 80, però un po' lo stile, direi, un po' così. Renzi, quello che aveva detto, io dopo il referendum me ne vado, poi sarò leader, vabbè, insomma, un ragazzo un po' così, e appunto il ragazzo, vabbè, è un po' nervoso da tempo, poi per le scissioni interne, poi perché neanche al suo paesello è riuscito a vincere. A proposito di paesello, invece è il mio paese. Io abito a Cantù, insomma, cuore dell'Alta Brianza. Milano è come una realtà di quasi 47.000 abitanti, insomma una realtà importante. Ecco, qui il centrodestra unito direi che ha sfiorato la vittoria al primo turno, perso di 100 voti. Infatti il sindaco, candidato sindaco del centrodestra, Edgardo Arogio, non ha vinto, si andrà al ballottaggio. Insomma, è un luogo, per dire tanto, abbastanza simbolico per raccontare in questa tornata di amministrative, dove da una parte appunto i grillini, che hanno, per dire, fatto flop anche qua a Cantù, grillini allo sbando, insomma da adesso con la svolta alla linea dura sui migranti, sono credibili, come se io aprissi un kebab a bar, cioè, insomma io che mangio polenta, sì, non sarei molto credibile. Devo dire, è vero, hanno perso il 10% dei consensi, insomma, giusto sempre ricordare i numeri, però come anche ieri ricordavano a parte alcuni ascoltatori molto arrabbiati con la semplice lettura di alcuni titoli, bisogna ricordare che in effetti hanno corso quasi tutti da soli, mentre come ricordavi tu, ci sono state tante alleanze che possiamo chiamare in senso lato centrodestra o centrosinistra. Massimo, secondo te appunto questo fatto di aver voluto essere coerenti e quindi correre da soli, che non ha pagato, perché non sono riusciti ad andare a nessun ballottaggio di quelli delle città più importanti, comunque alla fine sarà un boomerang, o tutto sommato appunto è un punto di coerenza, come dire, avevamo detto che non ci saremmo mescolati, poi in realtà c'è stato appena qualche giorno prima il pasticciaccio brutto, potremmo dire, della riforma elettorale, dove invece erano seduti al tavolo con gli altri partiti, però nelle elezioni di fatto correvano da soli. Beh, sono due piani diversi: uno è un piano istituzionale in cui si concorre a fare la legge elettorale ed è giusto che concorrono tutti per quanto possibile, l'altro è un piano in cui di elezione, in cui sia le elezioni nazionali che quelle locali i grillini si sono sempre presentati da soli, il che non è né un punto di forza, perché alle volte è un punto di debolezza, ma non può neanche essere un alibi. A Roma hanno vinto presentandosi da soli, a Torino hanno vinto presentandosi da soli, in questo giro non sono riusciti a trovare i candidati giusti e hanno commesso, soprattutto in alcune città chiave, penso a Genova e a Palermo, per dire che sono due delle situazioni più in cui potevano forse fare un risultato molto molto migliore, hanno commesso errori prima delle elezioni abbastanza clamorosi e quindi si sono autoesclusi. Il risultato del Movimento 5 Stelle personalmente non mi ha per niente sorpreso, non mi aspettavo niente di più e niente di meno. Per quanto riguarda la domanda iniziale, non è vero che non è vero che ai ballottaggi si può ancora cambiare molto, perché questo tipo di legge ovviamente porta anche a sorpresa al secondo turno, dove chi era in testa poi viene sconfitto magari, però se si deve trarre un'indicazione politica dalle elezioni che sono comunque amministrative ma che possono dare delle indicazioni politiche, la lettura che c'è stata in questi giorni è abbastanza corretta. Il Movimento 5 Stelle fondamentalmente non ha avuto un buon passo, ma sicuramente tra gli sconfitti c'è anche il PD, che ha perso, come ricordavi tu, 6 punti, e sicuramente c'è un'indicazione positiva verso un centrodestra unito che ha fatto un vero e proprio exploit. Oggi ci sono i numeri dell'Istituto Cattaneo che il paragona alle elezioni del 2013, quindi quelle con le nazionali, quindi con valenza puramente politica, e tutti e tre i partiti, sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, che la Lega in particolare, hanno avuto dei balzi in avanti. Il problema è che trasferire tutto questo, certo, a livello nazionale è praticamente impossibile, nel momento in cui il giorno dopo, con ballottaggi ancora aperti, Salvini e Berlusconi si dicono le peggio cose pur con il sorriso sulle labbra. Ecco, problema è che tutto questo si riesce a fare sintesi intorno a un candidato sindaco che nelle realtà locali si trova. Non si trova invece un candidato premier che metta tutti quanti d'accordo, e soprattutto non si trova neanche una linea comune quando parli dei sindaci, non parli dell'Europa. Quando parli a livello nazionale parli del tuo rapporto con l'Europa, e lì mi pare che la frattura sia proprio. Certo, tra l'altro qui appunto c'è questa curiosa differenza, che mentre probabilmente, almeno stando ai sondaggi, se andassimo a votare oggi alle politiche, il Movimento 5 Stelle non perderebbe quel 10% che ha perduto alle elezioni per i comuni, e invece come dicevi tu, al centrodestra potrebbe succedere il contrario. Aurora, però dobbiamo chiedere assolutamente a te su questo, cioè È vero che ieri c'è stato questo scambio di battute, che nonostante tu abbia appena finito di dire che il centrodestra unito ottiene dei buoni risultati, e poi però dei due principali partiti di una possibile coalizione si sono di nuovo beccati ieri. Ma in realtà ieri sera Salvini, che era ospite di martedì da Floris, io direi che ha lanciato dei messaggi molto distensivi, l'ho trovato molto molto lucido nell'analisi amministrativa, e anche lucido in quello che può essere davvero una nuova alleanza con Forza Italia. Ha ribadito che restano i progetti, se sono le facce il problema, io eventualmente faccio anche un passo indietro, a me interessa ovviamente un progetto per il paese che si basa, lo sappiamo, le parole d'ordine di Salvini quali sono: stop all'immigrazione selvaggia, prima gli italiani, e rapporto diverso con l'Europa. E anche lì dice, insomma, i rapporti di forza sull'Europa, se gli italiani daranno a Salvini la responsabilità di governo, non facendo di mestiere, ha detto, proprio lo sfascia carrozze, e considerato che è l'ultima occasione che si dà a tutti sull'Europa, io sono molto scettico sul fatto che, per dire, lui dice sia a Bruxelles che a Berlino vogliono davvero cambiare. Io, se sono io il problema, ripeto, tolgo ogni alibi, io ci metto la faccia in qualunque situazione, ma sono, ripeto, disponibile al dialogo per un'alleanza del centrodestra unito. E quindi, insomma, a questo punto dovrebbero essere ad Arcore a darsi una svegliata. Insomma, ripeto, Salvini ha fatto una campagna per le amministrative, quasi una campagna perfetta, e ripeto, forse ad Arcore dovrebbero essere un pochino più lucidi nell'analizzare queste amministrative. Prima del traffico vi faccio sentire, poi sentiamo subito il traffico, che invece dalla parte del centrosinistra, sempre sentendo le parole di Renzi ieri, questa possibilità di un centrosinistra pare proprio non esserci. Ma sentiamo Renzi, poi il traffico, e poi ci ritroviamo. l'ipotesi di dialogare con D'Alema mi sembra, come dire, negata dalla realtà. È evidente che hanno fatto una scelta loro, perché nessuno li ha cacciati, Giannini, nessuno li ha cacciati. Mattino. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Siamo oggi con Aurora Lussana e Massimo De Manzoni, con direttore della Verità. Archiviamo un attimo, tanto ne parleremo poi, ne sentiremo parlare tantissimo nei prossimi giorni, o almeno fino a tra due domeniche, quando si voterà al ballottaggio. Lasciamo un attimo la politica nazionale e tocchiamo un tema che sicuramente, almeno a me, ha colpito tantissimo, come tutto quello che riguarda la sanità e soprattutto la mala sanità. Sentiamo la voce di De Luca sull'episodio di cui abbiamo parlato anche ieri, di cui hanno parlato i giornali, di questa persona, che era di questa donna che, anziana, ricoverata in un ospedale di Napoli, fotografata con un braccio coperto di formiche. Sentiamo De Luca, che è il governatore della Campania. È un disastro e stiamo lavorando all'ultimo respiro per riqualificare e bonificare una sanità che ha tanti punti di eccellenza straordinari, ma che è stata per tanti decenni al servizio della politica politicante, che è stata inquinata da delinquenti, da camorristi, da finte associazioni per disabili, da affarismo di ogni tipo. Stiamo lavorando a un'impresa, la bonifica di questo sistema, che è un'impresa da far tremare le vene e i polsi. Tremare le vene e i polsi, ecco, ricordiamo per esempio che comunque De Luca non è proprio arrivato ieri in posti di è stato sindaco di Salerno per molti anni e adesso è governatore della Campania, quindi mi sembra che dare la colpa sostanzialmente alla criminalità organizzata, visto che poi la mala sanità non c'è soltanto in Campania, purtroppo è vero che abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari nazionali nella media al mondo, però è anche vero che questi episodi lasciano sconcertati, al di là di De Luca, che ormai quando lo si sente non bisogna concentrarsi un attimo per capire se è lui o se è l'imitazione che ne fa Crozza, scusate, ma il politico politicante appunto ormai è quasi un neologismo. Non so, Massimo De Manzoni, se a te che effetto ha fatto questa... Ma sono perfettamente d'accordo con te, ogni volta che, soprattutto in queste situazioni, si cita anche Camorra, 'Ndrangheta, ci sembrano degli alibi giganteschi. La Camorra con le formiche c'entra pochissimo, diciamoci la verità. Con le formiche c'entra molto di più, invece, i tagli che sono stati fatti alla sanità, che invece in questi casi qui non vengono menzionati. Mm. Ma noi dal governo Monti in poi, oggi lo scriviamo sulla Verità con Pierangelo Maurizio, abbiamo avuto un costante decremento degli investimenti nella sanità, fino ad arrivare sotto la soglia del 6%, che nelle nazioni occidentali è una soglia che non esiste, è una soglia sotto la quale si accetta consapevolmente non che ci siano le formiche nei letti, ma che muoia la gente. Per cui il problema è molto più vario, più serio di come lo viene posto, e non lo sbandierare infiltrazioni criminali in questo caso è totalmente fuori luogo. Il problema è un altro, il problema è che abbiamo dei medici, nella generalità dei casi, dei medici, degli infermieri in Italia, che sono degli eroi autentici. Certo, e dei gestori degli ospedali. Basta entrare in qualsiasi ospedale per... Vero, verissimo. Che lavorano in condizioni difficilissime, nonostante questo riescono a tenere la nostra sanità a un livello che ancora, per quanto riguarda gli investimenti e la considerazione che ne ha la politica, non meriterebbe quel livello, che lo raggiunge solo grazie agli sforzi di questo personale. Sì. Dopodiché accadono episodi assolutamente ingiustificabili come questo. Io non voglio dire che non è chiaro che ci si indigna, però questa indignazione a gettone con alibi incorporato mi lascia... Anche perché la stessa indignazione, poi con le stesse parole le ha usate proprio il ministro della salute Lorenzini, che addirittura manda una task force a Napoli, quando in realtà probabilmente la prima cosa da fare sarebbe riguardare questi tagli che sono stati fatti. Aurora, volevo chiedere a te, visto che si dice sempre che in Lombardia abbiamo una sanità eccellente, sappiamo che c'è il turismo sanitario non soltanto dall'Italia verso l'estero ma anche dal sud verso il nord del paese, però insomma anche in Lombardia Lombardia abbiamo avuto i nostri problemi. Del resto è la prima voce di spesa del bilancio, quindi tanti soldi, tanti appetiti, ecco, non proprio sempre sani. Però a te, insomma, che, come ti senti di commentare questo? Diciamo che anch'io ieri ho sentito il concione di De Luca che avete appena riproposto, ma più che una task force mandata dalla ministra servirebbe non solo alla statuetta della Madonnina di Fatima, pregare, perché allora sono 3 mesi ormai che ci sono state le dimissioni del commissario alla sanità campana Polimeni e non hanno ancora deciso la nomina del successore, cioè sono lì a decidere le nomine, intanto i pazienti vengono divorati dalle formiche. Che è quello che diceva Massimo, cioè che dalla politica ha un ruolo che non è il suo, insomma. Poi per forza che vengono a curarsi nel Lombardo-Veneto, scusa, io lo chiamo Lombardo-Veneto perché però forse questa macro regione Lombardo-Veneto comunque a livello sanitario funziona al netto di qualche triste vicenda, però insomma stai circoscritta. Ecco, capisci perché a questo punto uno di Napoli invece che andare a San Paolo scappa su un qualunque il primo ospedale che trova. Viene anche all'ospedale di Cantù pur di non farsi divorare dalle formiche già a Napoli. Non lo so, anche i livelli di assistenza pare che insomma non sono garantiti. È una cosa gravissima, ripeto, concioni di De Luca e minacce della Lorenzin, basta. Dopodiché c'è tutto il capitolo degli sprechi, ieri proprio sul Corriere della Sera c'era una lunga inchiesta, oggi la Lorenzin risponde dicendo che non è esattamente così. In ogni caso bisognerebbe probabilmente, se la politica deve avere un ruolo, probabilmente dovrebbe anche avere un ruolo dialogando con chi lavora negli ospedali, come diceva Massimo, vedere, cioè rendere veramente la sanità il più efficiente possibile, non magari un settore in cui si può pensare di guadagnare, ma almeno di non sprecare. Un'ultimissima cosa volevo chiedervi su questi toni usati per il Movimento 5 Stelle. A me non è piaciuto né Renzi che dice non diamo per morto Grillo, perché sembra più una cosa, al massimo può essere una battuta. Sentiamo soltanto un attimo Luca e Paolo su Di Maio, però Luca e Paolo sono davvero dei comici. Renzi, tu dici il ragazzo è agitato, però non so, io preferirei non sentirgli usare queste parole, questi toni, ma sentiamo Luca e Paolo. In molti vogliono la testa del coordinatore Luigi Di Maio. Chissà poi cosa se ne fanno della testa di Di Maio, anche perché si sa che se appoggi l'orecchio alla testa di Di Maio senti il mare. Quindi ecco, no, io credo che invece il Movimento 5 Stelle, come dicevamo, non so se siete d'accordo, proprio una battuta finale, in realtà deve essere una forza come avevamo visto sulla legge elettorale, con la quale bisogna dialogare, centrodestra, centrosinistra, uniti o disuniti. Aurora, cosa pensi? Mi sembrano sempre un po' in stato confusionale, danno sempre un po' l'idea di una corrida a 5 stelle ogni giorno. Cioè, ripeto, la mossa di ieri della Raggi disperata su Roma per recuperare, non so, quelle ripeto, Massimo, una battuta proprio finale, insomma. I 5 stelle siedono al tavolo di qualsiasi tavolo, no? Nazionale, credo. Ma sono il primo partito italiano, cioè, no, è inutile stare a girarci intorno. Certo, ci sono altro che errori, morti, certo. Errori, ingenuità, anche cose che fanno sinceramente arrabbiare le 5 Stelle, ma sono il primo in partito italiano e forse qualcuno dovrebbe interrogarsi sul perché lo sono, certo. Visto che se ne ha una considerazione così bassa, però dovrebbe, certo, anche perché è un insulto indiretto a tutti quelli che li votano o li sostengono, quindi grazie a entrambi, una buona giornata, un buon mercoledì ancora da Giulia Crivelli, noi ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, e veniamo ora alle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore sceglie di titolare sulla questione delle banche, tutt'altro che risolta in generale, perché il sistema bancario italiano continua a avere problemi, in particolare adesso, sappiamo che la vicenda Monte dei Paschi per esempio non è del tutto risolta, ma adesso l'urgenza